e nel caso di un massiccio attacco israeliano contro il Libano, l'Iran fa sapere di essere pronto a iniziare una guerra di annientamento. In diretta da Teheran, l'inviato del TG2 Carlo Maria Losani. Sì, il duro monito arriva dall'ambasciata iraniana presso le Nazioni Unite. Tutte le opzioni sono sul tavolo in caso di attacco su larga scala da parte di Israele verso il Libano. Si inquadra nella serie di avvertimenti, minacce reciproche che si stanno scambiando i due paesi nemici, ma oggi a Teheran è il giorno dei risultati elettorali per le elezioni presidenziali. Nessun candidato raggiunge il 50% più uno dei voti, si va dunque ad un turno di ballottaggio, la prima volta dal 2005, largamente in testa nei consensi il candidato riformista Bezeskian, che dovrà puntare però su una maggiore partecipazione popolare per prevalere al secondo turno sulla coalizione dei conservatori che appoggia il secondo classificato Jalili. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato. Massoud Bezeskian, cardiochirurgo, padre a zero, madre curda, occhio rivolto anche alle minoranze. Ha messo quasi a sorpresa la corsa alla presidenza, ha scosso dall'apatia il campo moderato e riformista, rendendo incerte elezioni dall'esito dato a lungo per scontato. Nessuno ha raggiunto il 50% più uno, ma è lui il più votato per la carica di presidente ed è lui adesso l'uomo da battere per il turno di ballottaggio. Gli chiediamo della questione del velo. Nessun comportamento disumano che viola la privacy deve compromettere le nostre sorelle, figlie e madri. Siamo contrari agli arbitri. Sui rapporti tesi con l'Occidente cercheremo di avere buoni rapporti con tutti, tranne Israele. Con quasi 10 milioni e mezzo di voti ed oltre il 42% dei consensi, Bezeskian consegue un notevole successo, posto che il suo profilo non era molto conosciuto agli iraniani prima che il Consiglio dei Guardiani, l'organo che vaglia le candidature, poche settimane fa gli desse luce verde. A contendergli la carica nel voto a due di venerdì prossimo sarà l'ultraconservatore Saeed Jalili, già negoziatore per il nucleare, appoggiato dagli strati più religiosi della popolazione e dai Pasdaran. Jalili ha surclassato gli altri contendenti del suo campo, prendendo il triplo dei voti del favorito della prima ora, il portavoce del Parlamento Khalibaf. Molto basso il dato dell'affluenza, malgrado gli appelli di tutti ad andare alle urne, solo il 40% degli iraniani ha votato, segno anche questo di una disaffezione profonda verso la politica e i governanti.